madre, il verbo eterno, presso il padre si è fatto come noi. Facci come lui. La luce eterna, per amore, la vita eterna, che non muore, in una vergine si incarnò. Tante volte vi ho parlato in tanti modi, lui ha agito, ma ora vive in mezzo a noi. Molte volte si è umiliato in molti modi, ci ha cercato, ma ora vive dentro noi. E a noi che crediamo, per la grazia, non per la carne, ci ha fatti i suoi figli, ci ha fatti i suoi figli. E a noi che speriamo nell'amore e nella giustizia, darà la sua gloria, la vita eterna. Verbum caro factum est, verbum caro.